Radio Androsso 87.9 in modulazione di frequenza. Primo appuntamento di questo 2020 per quanto riguarda questo spazio radiofonico. Disordere che andrà avanti da adesso sino alle 23 circa, e ricordo il telefono 0649 1750. Sito internet per seguirci attraverso lo streaming è www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Ricordo ancora una volta che anche per questo 2020 è stato approntato il radioabbonamento, che si può cercare nel nostro sito testé enunciato, cliccare sul banner specifico e scegliere anche la modalità di adesione. Ricordo naturalmente che domani sul sito della radio stessa e anche sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder si potrà trovare il playlist, il podcast di questa trasmissione odierna. Un saluto a Maia dalla Sardegna, Lucia Cagliazza Lupsi in quel di Udine, Lucia qui a Roma, Marco qui a Roma, la stessa Antonella Ashmoon sempre qui da Roma, Enkel Franco Barletta dal Piemonte credo, ma non mi ricordo esattamente da dove, se c'è in ascolto veramente magari ce lo dice, e pian pianino diremo anche gli altri. Bene, noi andiamo ad iniziare con un personaggio alquanto ombroso e sotterraneo, ma che comunque non sarà sconosciuto a tutti quelli che magari ci stanno ascoltando. Lui si chiama Joseph Van Missem, sorta di cantautore, versione praticamente neofolk, in versione minimale, in versione acustica, e soprattutto suonatore di liuto. Un personaggio che soprattutto nei timbri vocali personalmente mi ha ricordato Michael Jarre degli Swans. E quindi cominciamo con l'andarci ad ascoltare questo album del 2018 che si chiamava We Adore You, You Have No Name. Si apre con How You Must Live e poi ci sarà la traccia numero 4 dal nome Bow Down. Questo moderno menestrello proveniente dall'Olanda, Joseph Van Missum, We Adore You, You Have No Name, un interessantissimo lavoro uscito nel 2018. Il minimalismo acustico e soprattutto la perizia al liuto e alla chitarra acustica fanno di questo personaggio un artista molto particolare. Da menzionare anche, secondo me, la bellezza e la particolarità della voce di Joseph Van Missum. Queste ballate maledette che, come ho già detto, parzialmente mi ha anche ricordato una parte della carriera di Michael Jarre degli Swans. Benvenuto a Jean-Claude Huberteau, che ci sta ascoltando dalla Val d'Aosta, e a Solar Lodge, il carissimo Fulvio Biondo qui a Roma, insieme a Marco qui a Roma. Naturalmente ancora un buon anno a tutti quelli connessi o sintonizzati sulle frequenze qui di Radio Onda Rossa. Un inizio dunque acustico, oscuro ed inquieto, un inizio che va avanti mentre vado a salutare anche Cristiano Bocci e Sandra qui a Roma. Cristiano Bocci che ascolteremo mercoledì prossimo con Chemical Resistance. Torniamo a noi, a questa odierna programmazione. Dicevo, le note acustiche, la chitarra in primo piano, un elemento che è presente anche nel primo lavoro di Shadow World, il nuovo progetto di Roberto Del Vecchio, ex Gotica e Les Jumeaux Discordants, del quale abbiamo ritirato fuori il primo lavoro del 2017. Ne è uscito un altro sul fine dell'anno scorso, dal nome Desert Land, che ascolteremo più in là. Noi invece, appunto, torniamo sul primo lavoro, decisamente più acustico rispetto a Desert Land, dal quale ci ascoltiamo The River of Eight. E anche Loneliness. Peraltro qui, e la saluto, Ise Etoile da Milano, che il buon Joseph Van Missum ha vinto a Cannes un premio per la colonna sonora di On di Lovers Left Alone. Non sapevo, grazie Isa. Torniamo dunque a Shadow World e ci ascoltiamo queste due tracce del primo lavoro dall'omonimo nome. Inizio di Disordere di oggi 6 gennaio 2020, particolarmente acustico, con Joseph Van Missem e questo Shadow World, una nuova avventura sonica di Roberto Del Vecchio, vecchia conoscenza delle atmosfere più oscure, atmosfere più goth da un lato e quelle martial dall'altro, per esempio con Le Chemin Discordant insieme ad Aima Project. Atmosfere acustiche che vanno a terminare perché ci andiamo ad ascoltare un ennesimo passaggio di un pezzo della carriera di Kill Your Boyfriend. Ne abbiamo usufruito per molto molto tempo, ci prenderemo una pausa per poi ritornarci più in là nel tempo qui a Disorder. È il turno di un singolo uscito nel 2017 dal nome Ulrich e sentiremo entrambe le tracce che lo compongono, la stessa Ulrich e poi Werner, confermando, perpetuando la loro tendenza a dare nomi di persona a molte delle loro tracce nella loro carriera. Una carriera costellata da una fusione azzeccatissima tra Cold Wave, anche schizzi di industrial e post-punk, con Antonio Angeli e Matteo Scarpa.